E un saluto da casa al pubblico, ragazzi. Io sento di eco. Un filo di eco. Tutto a posto? Siamo alla seconda puntata di Daily Bug. Perfetto, Fedoro, grazie. Eccoci qui, eccoci qui. Che cos'è Daily Bug? È il programma radiofonico numero uno al mondo nello sviscerare tutte le frustrazioni tipiche della giornata lavorativa. E io continuerò a leggerlo tutta la vita. Ciao, Chucky. Bentornata, Martina. Martina! Mamma, Chucky! Sei contento di essere tornato in radio? Sono felicissimo. Anche io. Non vedevo l'ora. Anche io. Siamo assolutamente pronti, carichi, un sacco di gente ci sta ascoltando e sono super emozionata. Ciao ragazzi. Ciao amici. Bene, bene, bene, puntata numero 2, tua madre su Facebook. Tanta roba, tanta roba, tua madre. Bene, perché parliamo di tua madre su Facebook? Perché l'avete scelto voi. Cioè voi, il mese scorso, o meglio all'inizio di questo mese, avete scelto l'argomento e ovviamente, come dai pronostici più scontati, il tuo titolo marchettaro ha vinto. Certo, dopo tua zia è leggenda, cioè tua madre su Facebook, cioè voglio dire, non si poteva fare diversamente. E comunque vi sono veramente molto grato, perché questo è un argomento stupendo, stupendo. Bene, bene, ho scoperto essere tutti molto interessati all'argomento e molto felici che sia andato così il sondaggione. Il sondaggione, Martina, cazzo, ormai basta, è il sondaggione. Il sondaggione della vita, però, Chucky, diciamoci la verità. A parte i boomer, a parte Facebook, noi questa sera non parleremo solo di questo, ma parleremo di social network in generale e soprattutto di come questi social entrano anche nelle nostre giornate lavorative. Certo, certo, soprattutto. Però, siccome ormai siamo alla seconda puntata e quindi possiamo parlare di tradizioni, iniziamo subito con i tuoi numerini. Tac! Allora, vi snocciolo subito due numerini. Allora, vi racconto questa cosa, cioè vi racconto quanti utenti frequentano i social network. Dicelo. Vi dico subito che superiamo i 4 miliardi di persone che tutti i santi giorni frequentano Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok. Cioè qua abbiamo veramente un parterre che ci regala sempre grandi emozioni. Assolutamente. Allora, i social più utilizzati al mondo sono sempre quelli della famiglia Meta, cioè della famiglia Zuckerberg. Facebook, sì, esatto. Che fa da sempre padrona nell'ecosistema social. E Facebook conta quasi 3 miliardi di utenti attivi. A quindi seguire, il 50% della popolazione mondiale, indicativamente. Praticamente sì, perché a seguire ci sono YouTube, WhatsApp e Instagram. Ma la cosa che stupisce di più è che TikTok sta crescendo in maniera inarrestabile. Se sentite dei rumori... Sì, stanno facendo i lavori qua di fianco. Evidentemente. E stanno facendo delle cose, ma va tutto bene, andiamo avanti. Comunque, è TikTok che regala grandi emozioni, perché è arrivato in pochissimi anni a occupare la sesta posizione, cioè con una crescita inarrestabile. Direi assolutamente incredibile, direi sì. Cioè, cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che TikTok sta dando del grosso filo da torcere a Zuckerbello. Esatto, a tutto il resto della compagnia bella, Zuckerberg e Google. Bene, bene, bene. Però adesso tu mi hai fatto un quadro generale, ma io voglio entrare nella parte più succosa. Dammi dei numeri che rappresentino un po' il target, allora, di questi social. Va bene, Martina, scendiamo proprio nel pecoreccio. Prima notizia curiosa e anche abbastanza pecoreccia è che, ma voi lo sapete quante ore al giorno passano le persone sui social? Non ne ho idea. Ecco, non ne ho idea, dimmi. Allora vi dico solo che al primo posto troviamo la Nigeria e le Filippine. Ma questa cosa è agghiacciante. 4 ore al giorno. Bravo il nostro regista che aveva indovinato. Il nostro regista Fedoro, ma poi presenteremo anche gli ospiti. E noi italiani invece abbiamo una posizione d'onore, perché ci posizioniamo con 1 ora e 47 minuti al giorno. Sono un botto. È una cifra. Cioè, prendendo le medie, questa è veramente una cifra di tempo. E pensate che addirittura, cioè tra il primo lockdown 2020, nel 2021 è cresciuto ancora di più, cioè, tipo? Il tempo speso, ed è passato a 2 ore e 27 minuti al giorno. Praticamente passavamo la metà della nostra giornata sui social a guardare cosa succede. Certo, non è che avessimo qualcos'altro da fare, no, certo, se non panificare. Panificare a nastro, sì. Brava, io l'ho panificata a bestia, sappiatelo, però non so se questa cosa può essere rilevante. Secondo me il nostro pubblico è interessatissimo. E comunque, se volete sapere qual è la piattaforma su cui si passa maggior tempo, questa è YouTube, perché ci passiamo circa 24 ore al mese. Cioè... Anche perché parliamo di contenuti anche di fruizione un pelo più lunga, quindi... Esatto. Capito, è tutto un po' di più. Esatto, esatto. A seguire ci sono a pari merito Facebook e TikTok. Mamma mia, io ho molta paura di con TikTok. 19 ore ciascuno. Porcaccia. Cioè, è tanta roba. Tanta roba. Riepilogando, allora, dicevamo, i social media più utilizzati sono sempre quelli della famiglia Zuckerberg, con in Italia oltre 35 milioni di persone che tutti i giorni o quasi entrano e scorrono la timeline in maniera compulsiva, direi, ossessiva, compulsiva. Ma queste persone quanti anni hanno? Quanti anni hanno? Eccoci qua finalmente, quanto me l'hai fatta penare questa informazione. Esatto, perché partiamo dall'età media su Facebook, che si attesta tra i 35 e i 54 anni. Eccoli lì. Eccoli lì. E qui stanno le madri. Le madri in questa generosa fascia di età. E se si va oltre gli over 55, arrivano ad occupare il 59% degli utenti. Cioè, in poche parole, oltre la metà degli utenti di Facebook è over 35. Se poi ci spostiamo invece sugli altri social network, si scende a tantissimo. Esatto, immagino. Perché su Instagram l'età non supera i 35 anni per il 50% degli utenti. E direi. Quindi abbiamo più giovani. E mentre, ritornando a Facebook, è lì che sta lì. E qui è spiegato anche il motivo di questa del nome di questa fantastica, esatto, trasmissione. Perché tra millennials e comunque boomers, cioè è Facebook che è su cui è lì, si concentra lì, il pecoreccio. E allora c'è da dire che su Facebook il target è ben distribuito tra un 50% uomini e un 50% donne, e le donne, soprattutto over 50, sono quelle più attive. Mamma mia. E quindi ci sono anche le madri. E qua ci sono le mamme. Beh, bene, direi che abbiamo fatto un quadro molto interessante. E prima di proseguire in questa fantastica trasmissione e prima di presentare gli ospiti, vorrei proporvi un primo brano. Questa volta parto io, Chucky, e vi dico che ho scelto per i miei due brani di questa sera un filone femminista. Avevo bisogno di portare la qualità femminile sulla radio. Vabbè, ma qua, cioè, i livelli sono altissimi, io non posso competere con lo te. Lo so. Godiamocela. Va bene Martina, ok. Che mi taglio le vene. Dammi una lametta che ti taglio le vene. Ti faccio meno male del trapianto del rene. Ti voglio bene, sì, ti voglio tanto bene. Che mi schioppo le vene. Parlo già da sola e disegno nell'aria. Certo, ho un po' peccato, ma che goduria. Mi gioco tutto con candura. Senti com'è fetta questa lametta, da destra verso il centro, zat, dall'alto verso il basso, zit. Che gusto, che nesto, che me, che me, che me, che me, che me, che me, che me, che me, che me, che me, allora stop. Senti come taglia questa canaglia, ma che bottiglia, che me, che me, che me, che me, che me, che me, che me, che me, che me, che me, che me, che me, allora stop. Vivere in fretta, prendere al volo, tutto conviene. Dammi, dammi, dammi, dammi, dammi una lametta che mi taglio le vene. Mi faccio meno male del trapianto del rene. Mi voglio bene, sì, mi voglio tanto bene. Dammi una lametta che mi sgaro le vene. Martina, applausi veramente meritati. Ehi. Cioè il nostro share, non so, no, è diminuito. Esatto. Non so se questa canzone... Abbiamo perso circa 6 persone, ah, grazie molto alla canzone. Bene. Ma saranno le lamette. Sono, cioè, sicura che tu farei di meglio. Non ti preoccupare. Ci porterai a zero. No, non ti preoccupare perché i miei ascoltatori, i miei fedeli ascoltatori aspettano solo la mia Big perché selection. Oggettivamente io ho alzato un po' l'asticella. Fin troppo. Un po' troppo. Mm-mm. Un po' troppo. Però, abbiamo fatto la nostra fantastica introduzione per come è da tradizione e ora voglio raccontarti, Chucky, come ho pensato di suddividere la puntata di questa sera. Molto bene. Bene. Allora, secondo me ci sono due grosse categorie di persone, ormai sempre più diffuse, quelle che usano i social per lavoro e quelle che non lo fanno. E quindi le loro frustrazioni e il loro approccio ai social è molto diverso. Direi proprio di sì. Esatto, sì. Noi, io e te, Chucky, in particolar modo facciamo parte della prima categoria, cioè li usiamo per lavoro, ma anche per diletto. Esatto, però secondo me siamo dei profili piuttosto anonimi. Anomali, non anonimi. Anonimi direi di no. Molto bene, Martina, le lamette. Esatto, quindi cosa ho pensato? Ho pensato di invitare due ospiti, uno appartenente alla prima categoria e uno appartenente alla seconda. E per questa prima categoria ho pensato di chiamare Greta. Chi è Greta? Greta è una fortissima collaboratrice di Supermad. E in particolar modo ci tengo a fare una marchetta, perché è importante fare giusto, le marchette. Giusto. E ricordare questo, che Daily Bug diventa anche podcast. E lo trovate su tutte le piattaforme podcasting. Però abbiamo pensato che oltre a Daily Bug fosse carino anche fare Extra Bug. Vuoi dire qualcosa? Top, okay, top. Va. No, devo dire top. Bene, e quindi cosa succede? Oltre alle nostre puntate ci sono anche delle puntate registrate da Greta e Davide, che è un altro del team Supermad. E che presto sarà nostro ospite, immagino. Prima o poi potrebbe accadere, se Davide vorrà. E quindi per dire che oltre alla trasmissione voi dovete anche andare ad ascoltare il podcast, perché oltre alle nostre puntate che magari avete già ascoltato c'è del pecoreccio. L'extra. Mm-hmm. Oltre a Greta, che adesso, a cui adesso lascerò la parola, c'è anche Fedoro. Sempre presente. Eccolo qua. Quindi, Greta, Fedoro, iniziamo. Ciao Greta. Ma buonasera a tutti. Buonasera. Brava Gretana. Il punto dove parlare qua. È bravissima. Dai, che ho fatto anche le prove. Hai voglia di fare una mini presenta di te stessa? Ciao a tutti. Io sono Greta. Lavoro per Supermad e sono una content creator, quindi faccio cose digital, soprattutto okay. Meme. Bene, bene, bene. Chucky, tocca a te. Scusate, che qua c'è un gioco di microfoni, mi perdo un po' via. Allora, Greta, dica, mia cara dica. Greta, allora tu appartieni alla generazione Z. Arrivo, mm-hmm. Ok, allora, sì. Parlaci subito di qual è il tuo social del cuore. Allora, sono un po' combattuta tra Instagram, ovviamente, e TikTok. Mm. TikTok è la droga. TikTok, TikTok è la droga, ti posso perché, capire. Sì, Instagram in realtà lo uso più per contenuti un po' più seri, diciamo, un po' di ricerca, quando faccio la serie che lavoro, ok? Instagram invece, scusami, TikTok invece ci passo le ore prima di andare a dormire. Esatto. Cioè sono lì che alle 10. Come faccio io? Io lo so che tu mi capisci, io lo so. Senti, quindi questi due. Quindi allora TikTok è quello che usi per lo svago, lo svago vero e proprio. Sì, assolutamente. E Instagram è quello che usi per lavoro. Sì, molto. Ma tra tutti i social, tra tutto il panorama, qual è quello che invece usi di meno e di cui potresti anche farne a meno? Sempre lavorativamente o sempre per svago? Sia per svago che per allora, lavoro. Allora per svago e lavoro Facebook. Diretta così. Esatto. Sì, Facebook io non lo sopporto. Quindi, è caotico, ci sono persone caotiche. Ah, è caotico. Sì, molto. Molto bene, questa è una definizione che dovremmo segnarci. Manderai una mail a Zuckerberg. Esatto. Sei caotico, Facebook è caotico. Senti, ma tua madre è su Facebook? Ciao mamma, se mi stai ascoltando. Mia mamma è molto più attiva di me e riceve molti più like di me, tra l'altro, su Facebook. Assolutamente, e racconterei un piccolo aneddoto. Vai, snocciola questi aneddoti. Allora, io ho degli amici un po' particolari che spero stiano ascoltando. C'è stata una volta in particolare in cui un mio amico ha scritto direttamente in chat privata a mia madre. Tutto per provarci. Questo su Facebook. Tutto su Facebook. Perché tua mi sono madre arrivati gli screen di mia madre. Su Facebook. Perché mia madre è su Facebook. Madonna mia, è anche magia un po'. Sì, io mi sono emozionata. L'ho preso come un complimento, dai. Beh, dai. Almeno, cioè, pensa che si è preso la briga di cercare no, tua madre e di scriverle. Comunque, senti, un altro paio di domande, sì, così, giusto per conoscerti un po' meglio e conoscere il tuo approccio ai social. La cosa che odi di più di Instagram? Ma sarà una banalità, ma quello che odio di Instagram è la costruzione. Cioè la falsità. La tanta falsità. Su TikTok c'è il falso, ma è divertente. Ma è divertente. Su Instagram è un falso che si prende troppo sul serio. È vero, è vero. Quindi non sono molto d'accordo. Ma invece di WhatsApp, perché WhatsApp... cioè è categoria social. Assolutamente, anche sì, anche infatti ha introdotto le storie. Esatto, no? Esatto. Quindi, ok, iniziamo dalle storie. Bravissima. Le storie di WhatsApp. Le cose più inutili del mondo. Perché se tu metti una storia su WhatsApp è perché tu vuoi farla vedere a qualcuno. È certo. Io direi i gruppi numerosi. 176 sì. Persone che no, ti augurano no, buon raga, Natale. Di silenzio subito. Subito. Subito. Io mi tolgo anche di solito. Cioè, proprio il male. Abbandona il gruppo. Per sempre. No, no. Brutto. E terribile. Ascolta, invece, chiudendo qui sì, il tuo rapporto con i social, se dovessi scegliere tra il tuo social preferito al mondo, quale sarebbe? Social preferito al mondo, rimarrai su Instagram. Ah, comunque. Comunque rimango lì. Ok, il sì, tuo sì, rapporto sì, di amore e odio poi. Assolutamente. È un piccolo matrimonio, insomma. Ma magari accadrà lì. Ah. In live, ragazzi, vi mando il link. Molto bene, molto bene. Se posso. No, prego, fai pure, Martina, interrompo questa conversazione. Sono tornata. Ho prestato il microfono a Creta. E sono tornata per dire delle cose. Innanzitutto saluto la Dora, che è la mamma di Fabri, che ci sta ascoltando. E voglio dirti una cosa, Chucky, che è successa ieri proprio, credo, che mi ha riempito il cuore di amore e tenerezza. Perché ieri la Dora, che non è più una ragazzina, ma non diremo l'età in diretta perché non è carino, ha pubblicato la sua prima storia su Instagram e io ho adorato profondamente. No vabbè, grande top, Dora. Grande Dora. Assolutamente sì. Comunque volevo dirti che la radio per scopi personali non è che si possa utilizzare. Io vengo qua solo per scopi personali. Va bene, allora faccio anche i miei saluti. Fai saluti. Saluto Mario, ciao Mario. Ciao Mario. Bene, Chucky, però Greta ci ha portato il suo punto di vista da persona nel campo della content creation. Però la verità è che pure tu lavori sui social. Certo. E quindi io voglio il tuo sfogatoio personale questa sera. Ah, hai voglia? Se vuoi vado avanti 4 ore. No, meno, perché meno. Non abbiamo 4 ore, ma voglio che tu mi racconti qualcosa che nessuno sa. No, penso che tutti lo sappiano. Cioè, quello che odio io, penso che probabilmente quello che odiano in molti. Io proprio odio tua madre su Facebook. Bene. Non proprio tua madre, no. Ma il concetto di una certa tipologia di madri che affolla la timeline e che purtroppo, cioè, se appare nella mia timeline è perché è un mio amico. E questa è la cosa agghiacciante. Comunque, tra mamme su Facebook, mamme su WhatsApp, mamme di qua, mamme di là, devo dire che loro mi frustrano molto, cioè nel senso ti fanno che... del male proprio psicologico. Esatto, e quello che mi frustra di più sono le emoji sulle foto al posto delle facce dei bambini. È privacy. Appunto. Cioè, coprire i tuoi pargoli con delle faccine che ridono, che piangono o con un cuoricino gigante che gli copre la faccia è veramente agghiacciante. Se poi a corredo ci sono frasi come all'amore mio oggi ha messo il primo dentino... Ci tengo a dire che tutte le persone che ci stanno ascoltando, se per sbaglio l'hanno dovessero fatto. Riconoscersi, non c'è nulla di personale, ragazzi. No, assolutamente. È solo un pensiero generale. Esatto, stiamo facendo soltanto una conversazione. Stiamo facendo lo show, raga. Esatto. Oppure quelli che pubblicano il mio bambino oggi ha detto papà e c'è il tag del papà. Quindi sappiamo anche chi è il papà, esatto. È importante. Oppure amore mio oggi ha fatto caccuccia. Caccuccia. I vezzeggiativi, quindi sì. Quelli. E poi vai di foto vacanze, foto mare, foto cena, foto pranzo, foto del primo giorno di scuola, foto di carnevale, foto di Natale, foto del bambino che i regali di Natale, foto con la nonna, foto con... E il buongiornissimo caffè? E poi arriviamo anche al buongiornissimo caffè con la K. E in casi... eccezionali, anche la foto di Padre Pio che ti dà la buonanotte. Qui saliamo di livello, esatto. Quindi fondamentalmente tutto il tuo turbinio di frustrazione sta fondamentalmente nel Facebook. Sì, Facebook è, penso, cioè veramente il luogo in cui si verificano dei fenomeni extrasensoriali, cioè che vanno al di là del bene e del male. Soprattutto l'ho notato con l'esplosione della pandemia. Non entro ovviamente nel merito, però devo dire che lì si è aperto il vaso di Pandora. No, assolutamente. Poi c'è da dire una cosa che forse per i non addetti ai lavori è una curiosità. Chi lavora nel mondo dei social in realtà è costretto ad avere un account Facebook, non può decidere di non averlo. Esatto. E questo è il nostro problema, cioè noi detestiamo il piatto in cui mangiamo, fondamentalmente, il che è tutto un po' particolare, se la smetto di tirare i calci magari bene, però l'hai già introdotto con Greta. Tu hai un po' un tuo feticismo particolare per un'altra piattaforma, quella su cui tu sfoghi tutte le tue passioni, che è TikTok. Esatto, perché io trovo TikTok, o meglio, alcuni TikToker geniali, ma qui riesco anche a scovare della genialità nelle madri su TikTok. Ah, ci sono anche lì? È pieno di madri su TikTok. Cioè, è veramente pieno tra la milfona che fa l'aggressiva e l'avvenente e la madre che ti fa vedere come pulisce le pentole. Sì, loro sì. Esatto, sì, la madre che ti dà consigli di economia domestica e si sente anche la diva di TikTok. Cioè, questi sono atteggiamenti che comunque hanno... Da studiare, assolutamente sì, perché tra l'altro per me questo è un po' una news, nel senso che io ho la mia bacchetta di TikTok, è più o meno tempestata di canini e gattini, per cui non conosco questo retrogusto da tua madre su TikTok e mi incuriosisce molto. No, guarda, allora, l'algoritmo di TikTok è... perfetto, direi, perché una volta che capisce bene o male qual è il tuo gusto, sa chi sei e cosa vuoi vedere, a parte i trescioni di gente che si diverte e fa dei grandi TikTok molto belli. Ci sono anche tante mamme che soprattutto utilizzano, per esempio, la preghiera come mezzo di comunicazione. Come mezzo di comunicazione, ecco. Ma questo significa che se TikTok ha un algoritmo che funziona molto bene e tu vedi queste cose, a te piacciono queste cose. Sì, come fai a saperlo? Anche tu sei un algoritmo, Martina. È importante che si capisca e si percepisca che questo è quello che tu guardi su TikTok. È vero, lo guardo però con una certa distanza, anche perché poi io mi metto nei panni di questi benedetti figli, di queste benedette madri. Che sono su TikTok pure loro. Che sono su TikTok, esatto. Cioè, ma pensa quando per sbaglio, cioè neanche per sbaglio, tra un TikTok e l'altro... vedi apparire tua madre, tu, cioè, non sai se aver visto il diavolo o l'acqua santa. O l'acqua santa, cioè, ma è un trauma. Cioè, dopo il trauma infantile che hai subito con un emoji sulla faccia di una foto pubblicata su Facebook, adesso trovi tua madre che fa la lasciva con la tetta un po' di fuori su TikTok. Ti faccio una domanda, Chucky. Anche se so già la risposta, la tua mamma è su Facebook? No, per l'amor di Dio. Neanche la mia mamma no, è su Facebook. Meno male, meno male. Saluto la mamma, ciao mamma, che poi ciao niente, papà. Niente di male contro le mamme no, su Facebook. No, ma ci mancherebbe, ma nemmeno su TikTok. No, cioè, no, è bello, anzi, il mondo è bello perché è vario. Esatto, esatto. Ok. Comunque, ragazzi, noi in questi giorni abbiamo fatto dei sondaggi, abbiamo un sacco di contributis, però ricordatevi sempre che se volete scriverci, mandarci dei direct, noi ne parleremo più tardi in diretta. Scriveteci. Ora, purtroppo per me, siamo al secondo stacco musicale. Che tra le altre cose è inutile, cioè, che fai così, perché abbiamo perso share grazie alla tua. Adesso vediamo con questa tua canzone cosa succederà. Qua facciamo pum pum pum pum pum. Sì, pum. Sì, qua spacchiamo l'Instagram proprio, che però siamo sulla radio. Ecco, non fa niente, spacchiamo roba, tutto. È tanta roba, ha una partenza un po' lenta. Però sì, poi... ma sta arrivando, adesso l'accompagniamo e vi lasciamo all'ascolto. Per favore non ve ne andate. Vorrei dare il massimo, sabato e domenica, stare alla tua altezza non è semplice. Tu che metti all'angolo anche chi è bellissimo, annullando ogni rivale fisico. È un weekend di solito, l'emozione al massimo, mi rispecchio e mi riosservo un attimo. Non si fuma in macchina, resta un'aria pessima, ti conosco e puoi cambiare idea. Non si bella, tu si avvino comune e pensiero vanno sotto sta gonna. Tu sei sesso travestito da donna, l'ascensore della sensualità. Non si bella, tu sei quella perfetta, tacchi a stillo con la maglia costretta. Resta uguale l'esplosione nel petto, ogni sera da dove venga a pigliare. Non è certo una magnifica idea portarti fuori a ballare. Fragola, supero gli ostacoli, freni inibitori si disperdono. Ora sono al massimo, le mie labbra fremono, sparo il primo bacio e poi si va. Non si bella, tu si avvino in un e pensiero vanno sotto sta gonna. Tu sei sesso travestito da donna, l'ascensore della sensualità. Certo, una magnifica. fare l'amore, dai ti prego facciamo l'amore. Non si bella tu sia fine romun, e pensiero vanno sotto la savonna. Tu sei sesso travestito da donna, l'ascensore della sensualità. Non si bella tu sei quella perfetta, tacchi a spillo con la maglia un po' stretta. Resta uguale l'esplosione nel vento, ogni sera da dove venga a pignare. Non è certo una magnifica idea portarti fuori a ballare vestita così. Ci sarebbe una strage di cuori e muresse buri. Abbiamo lasciato questo attimo di silenzio, che è più o meno l'attimo di imbarazzo dopo aver ascoltato questa canzone. Ti è piaciuta, Martina? L'ascensore della sensualità, cosa ne pensi? Ti rispondo con un commento che mi ha mandato mia sorella, Vale, ciao Vale, che dice: l'ascensore della sensualità è tanta roba. Lo scriverò alla prossima foto erotica di una delle mamme su Facebook. Beh, vedi, almeno abbiamo dato spunti per combattere questa questa ha anche piaga. Aggiunto adesso sì che ci vogliono le lamette. Gli hai dato un altro spunto che non dovevi darle, insomma. Però voglio dire che il mio bro, nonché mio cognato, dice che siamo una droga. Droga. Perché siamo bravissimi. Va bene, allora, siamo tornati. Aspetta, perché adesso vorrei utilizzare questo mezzo per scopi personali. Sentiti libero. No, grazie Martina. Vai. Saluto. Però se non impari a usare quel microfono. Saluto. Meno. Saluto. Mona e Mone. Volevo dare un contributo. Vai, contribuisci. Per cui mi scrivono che la madre mette i tramonti sperando in un futuro migliore. No, vabbè. Nuove ere, insomma. Salutiamo la mamma. Saluti alla mamma. Bene, allora, secondo momento importante della serata, secondo ospite. Quindi ora vogliamo il punto di vista di qualcuno che ad oggi usa meno i social per lavoro e più per personali, insomma, per un'attività e uno svago personale. E quindi richiediamo a Fedoro di salutare il pubblico. Ciao a todos. Bene, Fedoro, innanzitutto il microfono, dobbiamo imparare ad usarlo anche qui, No, poi dite a me. Come stai, Fedoro? Non c'è male. Non è vero, però facciamo finta di sì. Fedoro, io voglio parlare con te del tuo approccio ai social e innanzitutto voglio chiederti quanto tempo passi sui social. Ma innanzitutto dovremmo calcolare qual è il costo sociale di questi social network, nel senso, sappiamo benissimo che i social network si appoggiano, sono servizi web e come tali hanno un costo sociale in termini di emissioni CO2, quindi dovremmo analizzare quanto questi social costano alla Terra. Secondo me potresti farci una bellissima puntata di colonna sonora. Esatto. Ed è proprio, diciamo, quello che stiamo costruendo, nel senso che con Colonna stiamo provando a costruire una serie di puntate sulla tecnologia in generale e sicuramente vorremmo affrontare anche il costo, diciamo, sociale, richiamiamolo, dell'internet in generale. Benissimo, ma qui siamo a Daily Bug e quindi voglio rifarti la domanda: quanto tempo passi sui social? In realtà non tanto, anche perché durante il giorno li uso proprio poco. Dicono tutti così, Adesso guarderei le statistiche del mio screen, come si chiama quella roba lì, del telefono che ti dà le insight del screen usage. Se vai su Instagram c'è anche una bellissima feature che ti permette di vedere quanto tempo passi al giorno. Ah, vedi, non lo conoscevo. Bene, però mi dici che quindi fondamentalmente durante l'orario lavorativo li usi proprio poco. Mm-mm-mm. Beh, questa è una risposta molto aperta. Beh, diciamo che da ho iniziato a utilizzare un po' di più il LinkedIn. Vabbè, ma qua ci posizioniamo on top. Sì, qua stiamo parlando di un social network decisamente più rilevante anche dal punto di vista dei contenuti, di solito, in media. In media. E come lo usi LinkedIn? Nulla, lo tengo aperto in ufficio. Beh, un utilizzo consapevole del mezzo, insomma. E perché lo stai usando un po' di più? perché è l'unico social che abbiamo attivo al lavoro, gli altri sono bloccati. No, comunque mi ritrovo sul commento di Gretana che TikTok è veramente una droga, nel senso che le poche volte che lo apro a settimana non riesco a staccarmi. Anche qui le poche volte. Le molte poche volte, perché tendo a non aprirlo, tant'è vero non è neanche tra le prime schermate delle app, devo andare proprio a cercarla. E effettivamente quando lo apri non ti scolli più. È fatto apposta, è l'effetto slot machine. Ma quindi se dovessimo decidere il tuo social preferito? No, allora, in che senso preferito? Nel senso, il social che mi piace di più o quello che uso di più? Perché? Dimmi tutte e due. Allora, quello che uso di più credo che sia ancora incontrastabilmente l'Instagram. Nel senso che è quello che comunque gli butti sempre un occhio appena hai un momentino libero. Ci sono problemi di segnale? Ci sono problemi di segnale? Cosa vuol dire? Vale, sii più specifica. Se hai voglia. Noi intanto andiamo avanti. Qui noi sentiamo tutto bene, ragazzi, per cui fateci sapere, perché noi siamo qui alla vostra mercé. Se c'è qualcosa che non va, capiamolo al volo, perché questa diretta sta andando molto bene. Molto bene. Andiamo a sprazzi. Sono cose che capitano. Celia dice io tutto ok. Allora Vale, fai così, esci, rientra. Controlla la tua connessione internet. Esci, rientra, Vale, perché va tutto bene. Refresh la pagina. Bene, andiamo avanti. Quindi tu mi dici che fondamentalmente quello che usi di più è Instagram, però poi alla fine quello che ti piace un po' di più è TikTok. TikTok spacca. Tanta roba. Cioè io sono veramente ogni volta che apro TikTok non sì, riesco però, a farne cioè, va bene, non ci ha pagato TikTok per questo. Comunque... certo che puoi dire, posso Greta. Posso dire una cosa? Secondo me TikTok diventa anche un momento di aggregazione sociale. Perché tu guardi TikTok e lo mandi almeno a 8 persone diverse dicendo oh ma guarda qui. Ma proprio così. Oh ma guarda. Sì, secondo me sì. Va bene, ti sei presa la mia giornata così. Il tuo momento di sfogo. Mi sembra assolutamente giusto quello che dici, ma vorrei tornare su Fedoro a bomba, perché abbiamo parlato di social ma poco di messaggistica, e vorrei chiederti WhatsApp o Telegram? Allora, mi sa che è un 80-20, nel senso che la parte fondamentalmente utilizzo WhatsApp per comunicare, utilizzo un po' di più Telegram per informarmi, nel senso che cerchi gruppi che parlano di determinate cose e li segui in maniera un po' passiva. C'è anche il momento hot. Questo momento così, vabbè, bellissimo. Se dovessi dirmi, al di là dell'impatto sociale, cosa odi di più del mondo social? Lo show off si può dire? L'ostentazione? Assolutamente sì che si può dire. Allora dico l'ostentazione. Cosa intendi per ostentazione? Beh, quello che fondamentalmente mi stupisce doverlo ribadire, ma quello che diceva prima Gretana, nel senso che il fatto che l'Instagram in particolare è una cosa molto fake, molto poco real. La finzione, insomma. La fiction. Ma poi un'altra cosa che ogni tanto vedi, non so, dei profili fondamentalmente inutili con 150.000 followers, dici boh, poi li vai a vedere, sono tutti indiani, bangladeshi, bangladini credo si dica, quelli lì. 150.000 follower a $2, esatto, only real follower, e 400 like, che tra l'altro Instagram mi da un po' ha rimesso visibili il numero dei like sulle foto, se tu vuoi. Sì, è vero, l'ho fatto, anche se questi aggiornamenti sono, a seconda dei profili a me capita di vedere attività diverse. Perché puoi scegliere. Lo so, ma Instagram in realtà sta facendo un po' di aggiornamenti particolari, e questa cosa la fa un po' a spot sui social che seguiamo, e Fedora mi dice che non sono interessante perché abbiamo meno ascoltatori, però io sono sicura di sì, e quindi vado avanti. Come abbiamo meno ascoltatori, Martina? E che cazzo ti devo dire? Ciusè, si vede che questa parte non gli interessa. Intervento. No, Fedora, tu sei sempre molto speciale, sono contentissima di averti qui anche questo mese. Vabbè, ma adesso tanto c'è lo stacco musicale numero 3. Aspetta un momento che devo fare un'ultima domanda a Fedora. Fedora, quindi tu hai i social bloccati in ufficio? Oh yes, non possiamo accedere. Da PC. Da PC. Ma da telefono? Li guardi? Non troppo. Dai, non ci crede nessuno. C'è chi dice la verità e chi mente. Lui mente. Prova a scrivermi su Instagram domani in ufficio. Se ti rispondo nell'arco di qualche ora, mi darei ragione. Io gli scrivo sull'Instagram quando è in ufficio. E ti risponde? E risponde. Comunque, terzo stacco musicale, tocca a me. Tocca a me e continuo con il mio percorso femminista. E continuo con il top dei top della selezione di donne con... Sì, che abbiamo sentito, strasentito. Qua ci vuole roba nuova, roba... Questa è roba figa, non è roba nuova, è roba figa. E, no, e il figo non ha età. Brava, brava, è vero Martina, è vero, anch'io. Goditela. Grazie. Beh, che dire, Chucky, questa è musica. Beh, e dopo questo tuffo nel passato dei favolosi e mitici anni Plastic, grazie Martina per averci regalato questa chicca, adesso passiamo invece a chiederti, a farti delle domande. Sempre davanti al microfono, non è che ti devi spostare. Madonna, agitare. Sempre qua sono. Devi stare alla vista. Lo sai che sono... bisogna di prendere il Ritalin. Senti Martina, anche tu lavori sui social, purtroppo. Anche tu frequenti i social... E anche tu sei una donna frustrata, sì, dai, sì, social, sì, sì, sì. Devo dire di sì, devo dire di sì. Ora, ho pensato di fare una cosa diversa. Ho pensato che volevo raccontare una poesia. Martina, allora già abbiamo perso un po' di ascoltatori con la tua selezione musicale. Qua andiamo di standing ovation dopo questa cosa. Leopardi, Martina, sì. Leopardi. Sì. Sei pronto? Guarda, non sto nella pelle. La poesia si chiama Mannaggia a me. Ah, che bello, Martina. Vuoi che metta una canzone napoletana? No, va bene così, perché secondo me il silenzio è ciò che è giusto per questa. Ah, qua è anche teatrale la sì, cosa. Poi sto creando hype, perché ancora non la sto dicendo, non la sto leggendo. Mi raccomando, adesso qui, silenzio intorno. Tutti voi in silenzio, a casa, ascoltate. Alzate il volume. Se siete in macchina, fermatevi in una piazzola sì. prima di fare qualche incidente, perché magari vi scende la lacrimuccia. E abbiamo la poesia di Martina. Esatto. Mannaggia a me, di Supermad. Scusa, Martina, dirige l'orchestra. Ma non sei incredibile. Beppe Vessicchio. Bene, bene. Mannaggia a me, e a quando ho lasciato che WhatsApp diventasse uno strumento di lavoro. Mannaggia a me, e a quando ho permesso che i gruppi mi rovinassero il sonno. Mannaggia a te, che quando mi mandi le mail, poi mi mandi WhatsApp di check. Mannaggia a voi, che visto che è WhatsApp, allora anche se è weekend non importa. Mannaggia a te Instagram, che sei diventato elitario e dei contenuti non ti frega più niente. Mannaggia a me e ai ridli gattini che mi tirano scema almeno 10 minuti al giorno. Mannaggia a te Creator Studio, che un giorno vai e altri 10 no. Mannaggia ai Buongiornissimo Caffè. Mannaggia i ricordi di Facebook che ti riportano alla mente cose che avresti dimenticato volentieri. Mannaggia le statistiche. Mannaggia i social che hanno fatto credere ai comuni mortali che basta fare contenuti per vendere a prescindere dalla qualità del loro prodotto. Mannaggia a me che poi devo fare i salti mortali per provare ad accontentare tutti. No vabbè Martina, adesso veramente qui mi alzo e me ne vado. No, ma qua ci vorrebbe l'applauso finto. Wow, una cosa così finto. Sì, ci stava. Cioè, secondo brava, me questa bravissima. È da standing ovation. Brava, perché cioè tanta chi tanta si lascia in broda. Assolutamente no. Sì, ma secondo me lo merito stasera. Brava. Dopo ti offro una birra, Martina. Una bella barra. La barra. Comunque. Allora, noi aspettiamo i vostri contributi. Sì, perché dopo questo quarto stacco, di cui mi vergogno un po' perché l'ha scelto Chucky. Ragazzi, adesso ci sarà lo spazio pubblico. A palla, perché veramente, cioè, dopo la poesia di Martina non può che esserci una canzone che vi svuota il cervello. Ci tengo a dire che questa fantastica meraviglia ha portato un abbattimento del 50% dei nostri ascolti. Ma perché la gente a quest'ora si mette a cucinare, però può anche farlo ascoltando la radio. Ci ascolta, esatto. Però esatto. Va bene, dai, è ora di musica. Dai, regà. Non cercavo un ragazzo di strada, poi mi hai distratta prendendomi un'altra bugia. Quando la notte arriva, mamma non va a un fiore, America Latina, ma Cuba libre amore. Quando la notte arriva, 200.000 ore, I'm not afraid of the dark. 100.000 ore, amarsi un'ora prima e dopo lasciarsi andare. Bella, eh? Bella, Martina. C'è chi, mia sister e mio bro mi dicono tante cose su questa tua selezione musicale. Vuoi per favore spiegare cosa ti spinge a fare queste scelte? Ma c'è una coerenza e una cifra stilistica che, cioè, è riconoscibilissima. C'è un pezzo della tradizione partenopea moderna che spinge alla passione, e un pezzo invece più ritmato come questo di Anna Mena, che invece ci regala momenti di... Certo, certo. Vedi invece Greta, ti prego, dillo. No, volevo precisare, so che Albi e Marco mi stanno sentendo, ieri abbiamo taggato Anna Mena in una storia e lei ci ha ricondiviso. Fine, cioè, totale. Qua siamo a dei livelli altissimi. Oltretutto questo è un successo che viene da Sanremo, Farei un minuto di silenzio, ma non sta bene in radio. No, esatto. Se vuoi continuo a parlare io, o se vuoi canto io, cioè... No, però siccome voglio tornare assolutamente a tirare dell'acqua al mio mulino, alla mia performance poetica di prima. Bravissima, sempre, Martina, bravissima. Sempre il mio bro dice che dopo quell'esploit meraviglioso si ubriaca questa sera. Ma è quello che farò anch'io comunque. Dopo aver salutato comunque Lady Tassi, non dimentichiamoci che... Ciao Tassi. Spero che ti piaccia questa diretta di questa sera. Ma speriamo che piaccia a tutti i nostri ascoltatori, anche perché ci mancano 10 puntate per finire la serie. Quindi vedete bene che dovete continuare ad ascoltarci. Esatto. Arriviamo allo spazio pubblico. Spazio pubblico. Ci dovrebbe essere un jingle. Tu. Esatto, grazie. Allora, abbiamo fatto dei sondaggioni durante la settimana e abbiamo chiesto al nostro pubblico sull'Instagram alcune cosine. Partiamo da tua madre è su Facebook, secondo te ha vinto il sì o il no? Ha vinto il sì. Sbagliato, ha vinto il no, ma per il 54%, quindi siamo un po', ce la giochiamo. Dopodiché abbiamo chiesto il social più usato, quello preferito, diciamo, e ha vinto tra Instagram, Facebook, WhatsApp e TikTok, ha vinto... Instagram. Esattamente, seguito da... Facebook. No, seguito da WhatsApp. I nostri followers non amano Facebook e infatti, se potessero scegliere un social network da cancellare dalla faccia della terra, hanno scelto proprio Facebook. Ma evidentemente è veramente caotico. Come dice Greta. Ci tengo a dire che il secondo posto è occupato da TikTok, il tuo amato TikTok. Grande. No, il secondo posto di quelli che... vorrebbero eliminare. Sì. Ma perché quanti anni... L'età media di quelli che rispondono ai nostri sondaggi è 82. No, perché se non vogliono Facebook, no. Secondo me i miei followers sono di una categoria superiore. Ah, hai capito? Ok, ecco, sono quelli che ascoltano la tua musica. La mia radio, la mia musica, i miei contenuti, la mia vita, tutto amano di me. Tutto. Andiamo avanti. Ti capita di distrarti sui social durante l'orario di lavoro? Sì. Infatti ha vinto il sì. Ha vinto il sì col 63%. L'altro 37% dice che non ci riesce, ma secondo me mente. Mente? Mente, sì. Mente. Ma è timido. E poi abbiamo chiesto, usi social per lavoro? Anche qui ha vinto il sì. Purtroppo chi non li usa? Anche solo avere una pagina Facebook è un lavoro. Purtroppo sì. Arriviamo a dei commenti un po' più approfonditi. Dunque, Valentina dice: le collaborazioni aziende influencer, io ci lavoro e so come è tutto costruito. Cioè, qua stiamo chiedendo cos'è che piace meno dei social, no? E quindi la parte di collaborazione azienda influencer è un po' una parte abbastanza strana, abbastanza fumosa, non si capisce cosa ci sia di vero, non si capisce cosa ci sia di comprato. E capisco assolutamente Valentina quando dici tutto ciò. La frustrazione. Esatto. Capisco anche Greta, che tra l'altro è qui con noi, che risponde ai nostri sondaggi, che risponde, cioè, anche ai nostri sondaggi, e dice che anche se lei ama il trash, lo sappiamo, detesta il fatto che vinca la viralità sul contenuto. Purtroppo questo è il funzionamento diabolico di questi mezzi, che ci danno tanto sollazzo ma ci danno anche tante rotture di palle. La mia amica Roberta da Pontirolo, ciao Roby, nessun limite di orario. Cioè non c'è limite, dovrebbe esserci un'interruzione delle trasmissioni a un certo punto, cioè dalle 11 buon basta, chiuso Instagram fino alle 7 del mattino. Ma dopo, se tu pensi all'ultimo clamoroso down di Facebook e Instagram, è stato piacevolissimo per un giorno e mezzo non avere a che fare con queste, sì, piattaforme. È stato veramente bello, cioè è stato, siedi sul divano bello e non pensi più a niente. La nostra amica Chiara, che salutiamo, from Lisbona, esatto, dice che i boomer che fanno i marketing manager li detesta. Sono le mamme. Sono le stesse mamme su Facebook che mettono le faccine con i cuoricini. Esatto. Sorame, quindi sempre mia sorella, mi dice che tua zia, che non vedi da una vita, un giorno decide di rimettere like a tutte le tue cazzo di foto. Questo è il commento. Vuol dire più che stasera mia sorella sta regalando, esatto, emozioni. Tua sorella dovrebbe anche apprezzare la mia scelta musicale. Dice però, di no, però. Male, molto ma una male. Sera possiamo invitarla come ospite. Sì, sì, poi le faccio io due considerazioni. Monica Giraldi, tra l'altro, nostra ex. La Monica! Sì, dice che dà una voce a tanta gente che forse sarebbe meglio che non avesse tutta questa voce. Diplomatica. Ma molto molto azzeccato. Sì, perché poi il problema qui c'è sempre un po' questo borderline fra la libera espressione e la tuttologia. E la tuttologia, che anche meno, ragazzi, perché poi alla fine uno deve avere la consapevolezza di ciò di cui può dire la sua e forse altri in cui dovrebbe ascoltare, basta. Esatto, senza mettersi lì a parlare di questo e quest'altro, anche perché poi ce l'abbiamo, cioè è sugli occhi, è davanti agli occhi di tutti, e prima i vaccini, cosa c'è dentro e cosa c'è fuori, adesso sono tutti esperti di, sì, guerre mondiali, se tu ci pensi. Sì, sì, sì, ma infatti uno dovrebbe sicuramente informarsi, ma a volte fare anche un passetto indietro e tenersi la sua opinione come... Esatto, sua opinione, esatto. Le tasche sono preziose, mettersela lì, insomma, esatto. E non sui social. Va bene, io vorrei dire che anche qui, anche questa sera, incredibilmente siamo arrivati verso la fine. Incredibilmente. Vabbè, però il tempo quando passa velocemente è perché ci si diverte alla grande. Alla grande. Io starei qua altre due ore, ma secondo me perdiamo gli ultimi due follower che abbiamo. Sì, sì. Allora vorrei fare in chiusura una domandina flash. Flash. Aspetta, che a mi pensentro. Dicono che sui social la gente ha dimenticato che esiste la dotta ignoranza. È vero, è vero, è vero. Questo me lo dice il mio bro. Se non vi distraete con i TikTok nel frattempo. No, mio padre che dice una cosa molto figa. In realtà, ti prego Greta, dici quello dici che... cosa dice tuo papà. Allora, in diretta mio papà mi scrive: domani compro una cartolina con il francobollo e te la mando. Evviva i social di una volta. Assolutamente sì, assolutamente questo, sì. Questo è veramente il ritorno alla normalità. La cartolina che anche, cioè, la mia migliore amica che mi spedisce sempre le cartoline più brutte che trova dalle località turistiche. Beh, e questa cosa, ti giuro, mi arrapa da morire ogni volta che ne trovo una così brutta. Abbiamo scatenato un po' i commenti proprio in live e mi dicono sempre mia sorella, perché credo che mia sorella, ma Salvo, non dire sono, chi lo dice, sì. Così sembra che abbiamo tantissimi ascoltatori. Vogliamo parlare di quelli che si scattano le foto con commenti improbabili, tipo Freedom, Sunshine e il mitico tag No Filter, e poi ti accorgi che hanno gli occhi verdi e le lentiggini quando fino a 40 anni non le hanno mai avute. Scusa, ma Freedom ha ammazzato e niente, Vale, ti vogliamo in trasmissione. No, ti prego, Freedom. Hashtag Freedom. Salutiamo i nostri ospiti con un'ultima domanda e voglio chiedere una cosa, proprio fare una domanda esistenziale, e parto da Fedoro, perché come è giusto che sia, prima partita Greta. Fedoro, secondo te un mondo senza social network sarebbe migliore? Lo credo profondamente. Come mai? Non lo sa. A posto. No, è una risposta che implicherebbe molto più di una pillola. Va bene, va bene, va bene. Greta, secondo te un mondo senza social sarebbe migliore? Io sarei disoccupata. No, non è vero, ti potrei chiedere di fare cartoline. È vero, oppure il mio sogno è fare ceramica. Mi do alla ceramica. Va bene. Ragazzi, come sempre bellissimo, senza di voi non sarebbe stata così bella. Salutiamo Greta, salutiamo Fedoro. Chucky, prima di chiudere, direi che, visto che ha funzionato la volta scorsa, vogliamo lanciare il sondaggio sulla prossima puntata? Sulla prossima puntata. Allora, dovrete decidere se il prossimo tema sarà "Il mio boss è differente" oppure "Gli straordinari non esistono". Siamo veramente molto curiosi di sapere cosa sceglierete. Hashtag freedom. Va bene, un saluto da casa al pubblico. E un saluto a tutti quelli che mi conoscono. Ciao amici. Ciao regà.